ma i centri specializzati che curano il paziente in modo attento, premuroso, perché è un paziente che ha paura. Questo è un particolare molto molto importante. Se il paziente si fa vincere dalla paura, diventerà un aggravante della malattia molto molto importante. Sì, diventa schiavo della sua malattia, sì, quindi sì. Parlatene con il vostro medico di base, che sicuramente vi indirizzerà al centro giusto. Bene, certo. Il numero verde è a vostra disposizione, arrivano già i messaggi, voglio leggervi questo di Roberto, di Luca, 36 anni, al mattino quando mi alzo, forte vertigini, gira tutto e sento bisogno di vomitare. C'entra qualcosa questa malattia o solo problema di pressione? Dottor Manfrin, possiamo rassicurare Roberto o dobbiamo fare una specifica? Sì, dovremmo specificare che raramente nella malattia di Menière le vertigini sono legate al movimento, pur potendosi magari avvertire di più quando ci si muove durante la crisi, tanto vero che il paziente durante la crisi preferisce stare fermo. In genere vertigini legate ai movimenti possono essere dovute ad altre cose, sia se labirintiche che generali di tipo vascolare. 824 0024, continuate a chiamare, daremo naturalmente voce ai vostri dubbi, alle vostre domande, anche alle vostre esperienze. Se tra i nostri ascoltatori ci sono dei malati di Menière e vogliono raccontarci la loro esperienza, noi siamo pronti ad accogliere i messaggi al 349 238 6666. Una mela al giorno. E adesso scendiamo, andiamo giù fino ai nostri piedi per parlare di un problema diffuso e anche doloroso e fastidioso. Parliamo di unghia incarnita, cioè quando l'unghia del piede, in modo particolare quella dell'alluce, non cresce dritta ma si incurva e penetra nella pelle ai lati del dito. Chi l'ha provata sa che è molto doloroso, e allora cerchiamo di capirne qualcosa di più oggi con il professor Avagnina, che è tornato a trovarci. Buongiorno e bentornato. Buongiorno Nicoletta, grazie dell'invito anche oggi. Podologo e presidente della Società Italiana di Podologia, che ha anche un sito, vero professore? Vogliamo ricordarlo? Il nostro sito è www.sniponline.it. Allora, iniziamo dal principio. Perché si incurva l'unghia? Sbagliamo noi qualcosa? Può essere la pedicure, le scarpe troppo strette? Insomma, è un po' colpa nostra oppure... Dipende, è la risposta giusta. Nel senso che ci sono alcuni individui che hanno la, tra virgolette, sfortuna di nascere con una forma ungueale, proprio la morfologia dell'unghia, sì, è già predisposta o addirittura incarnati. Sono dei bambini che nascono con un'unghia incarnata, senza ancora aver messo un paio di scarpe ai piedi o messo il piede per terra per camminare. Quindi questa è la parte genetica ereditaria su cui bisogna intervenire cambiando la morfologia, vedremo come. Sì. Altre volte, invece, la maggior parte, forse, siamo noi che con... o abitudini errate di calzature, specialmente le donne con le scarpe a punta e tacco alto, oppure con una camminata sbagliata che incide sulle forze applicate sull'unghia, o con tagli errati, favoriamo l'insorgere di questa patologia che si chiama onicocriptosi in termine tecnico. E noi comunque continuiamo a chiamarla unghia incarnita, che ne dice, prof? Senta, però ci sono delle avvisaglie, oppure quando ce ne accorgiamo il danno è già fatto? Perché io sa che io amo sempre dire occupiamocene per non preoccuparcene. Quindi c'è un piccolo segnale che ci fa capire che la nostra unghia sta crescendo male, quindi rischia di incunearsi tra la pelle, provocando poi, lo sappiamo, dolore, gonfiore, a volte anche febbre. Allora, dobbiamo innanzitutto capire che non tutte le volte che l'unghia fa male è un'unghia incarnita. Sì. Perché bisogna fare una diagnosi differenziale tra, ad esempio, una semplice callosità del solco ungueale dovuta a una pressione senza alcuna ferita, senza alcuna infezione, sì, che fa male ugualmente ma non è un'unghia incarnita, oppure ci sono patologie un po' più complesse che dipendono dalla falange, dall'osso che c'è sotto, che essendo in proliferazione eccessiva preme contro l'unghia nella scarpa e fa male, e sono le esostosi subungueali. Quindi già fare una diagnosi tra queste tre patologie ed eventualmente le onicomicosi, che in genere non fa male ma possono essere concomitanti a queste patologie, è importante. Certo. Per capire

hanno una significativa diminuzione del grasso corporeo, la loro flessibilità articolare è fortemente migliorata e evitano delle posizioni errate, che sono un po' il grosso problema oggi sia nel mondo del lavoro che nel mondo della scuola. E poi questo tipo di attività permette anche un miglioramento della densità minerale ossea, cioè sono valide anche in chiave anti-osteoporosi. Professore, io la ringrazio, quindi tante buone ragioni per iscriversi a un corso di yoga, quindi le asana per il nostro benessere. Professore, le auguro una buona giornata e un buon lavoro. Grazie, arrivederla. E per oggi è tutto, vi ringrazio per essere stati con noi e come sempre vi do appuntamento a domani dopo il GR delle 11. Buon pomeriggio da Nicoletta Carbone.